Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla dei campeggi, che fu una pratica che consentì a molti figli delle classi povere di passare dell'estate, di essere in qualche modo coinvolti in un ragionamento generale di anche educazione, di emancipazione personale. Più che un campeggio dunque, è questo volume, edito dalla Fondazione Barberini, Memorie di Immaginazione, dicevo più che un campeggio, sottotitolo Un'esperienza di cooperazione educativa, una scuola per l'avvenire. Tutto questo con l'introduzione di Vanni Codeluppi e a cura di Antonio Canovi, Carla Rinaldi e Sandra Ragni. E proprio con Sandra Ragni, Morena Moretti ha fatto un po' il punto di cos'erano questi campeggi, come si svilupparono e come in qualche modo formarono dei ragazzi. Sandra Ragni, tu sei la curatrice insieme a Carla Rinaldi e Antonio Canovi del libro Più che un campeggio, un'esperienza di cooperazione educativa, una scuola per l'avvenire. Questa era una storia che rischiava, come succede tante volte, la dispersione, che voi avete pensato di recuperare. Allora ci racconti la genesi di questo lavoro? La genesi, sì, più che un campeggio, perché è molto di più di un campeggio estivo. Cioè a Reggio Emilia, quando parli di campeggio, tutti capiscono, intendono il campeggio delle cooperative. Quindi questo percorso è durato quasi 20 anni, ci vergogniamo quasi a dirlo, chiaramente da un gruppo di campeggiatori, perché non riuscivamo a trovare un sostegno economico, ma soprattutto volevamo che questo sostegno economico arrivasse dalla cooperazione, che era il suo alveo naturale, perché avremmo potuto chiedere, c'erano state offerte, diciamo così, degli appoggi, però alla fine ci siamo riusciti. Quindi il libro è stato sostenuto da LegaCoop, Borea, alcuni soggetti cooperativi, editori, Fondazione Barberini di Bologna, che è legata al movimento cooperativo, e quindi ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti a dare vita a questa pubblicazione. Quindi questa genesi è stato un impegno enorme, anche perché oltre a noi curatori, autori, di Antonio, Carla ed io, ci sono stati tantissime altre persone che hanno dato il loro impegno, la loro voce, la loro testimonianza. Abbiamo raccolto circa 3.500 foto, interviste e racconti di oltre 50 persone, sia in incontri individuali che in incontri, diciamo, in serate organizzate, quindi in incontri collettivi, che hanno appunto dato con una grande passione, un grande orgoglio di appartenenza, voce a questo loro vissuto. Quindi voi avete fatto un lavoro di interviste che sembrano anche delle chiacchierate quando apriamo il libro, e un lavoro di ricerca iconografica veramente straordinario, perché le foto restituiscono tantissimo di quel campeggio, forse addirittura più delle testimonianze. Quindi avete fatto questa scelta, che non è esattamente una scelta storica di un libro storico, ma più che altro di memoria. Poi ci avete messo anche diverso tempo, perché le interviste partono diversi anni fa, perché noi pensavamo poi di concludere prima, soprattutto poi per fortuna, perché alcuni dei campeggiatori, quelli che erano i primi degli anni 50, ci hanno lasciato purtroppo, e quindi però siamo riusciti a raccogliere la loro testimonianza. C'è stato molto entusiasmo nell'offrirci le foto, anche se molti erano preoccupati di non avere più, di averle nei vari traslochi, averle perse, non ritrovarle più. Alcune ce ne hanno date anche due o tre, e chi ce ne ha date centinaia, alcune bellissime, soprattutto le foto dei primi anni che si facevano in bianco e nero, erano di adulti, quindi che lavoravano allora, e quindi avevano la possibilità di comprarsi una buona macchina fotografica. Poi negli anni 70 sono arrivate le Polaroid, la qualità è diminuita, insomma, per cui nel libro purtroppo sono solo in bianco e nero, anche se negli originali li abbiamo a colori. Le foto un po' raccontano, perché abbiamo pensato che potessero accompagnare le interviste, il vissuto quotidiano, oltre alle testimonianze potessero raccontarlo, e è stata una scelta, diciamo così, felice, perché effettivamente da piccoli particolari si vede proprio la trasformazione dagli anni 50, sia delle persone, delle strutture, dei luoghi che siamo andati a ecco, ricordiamo allora il periodo in cui si sono svolti questi campeggi, anche i luoghi. Il primo anno dei cooperatori, 1950, a Vaglia di Ligunchio. Si cominciò con un gruppo di 30 operai della Slanzi. La Slanzi era una fabbrica di Novellara, che non era assolutamente una cooperativa, una fabbrica privata. C'è il turno dei grandi, che chiamiamo noi, e dopo il turno dei pionieri. I primi anni, fino alla fine degli anni 50, quando si sciolse i pionieri, il campeggio si faceva insieme. C'era il turno dei ragazzini, fino ai 13-14 anni, gestito dai pionieri, e quello dei grandi dai cooperatori. Il campeggio, era in tenda, tendamento proprio, veniva montato, smontato, curato dai cooperatori, noi li abbiamo chiamati costruttori, che facevano questo lavoro a livello volontario ovviamente, no? Prendevano delle ferie. Poi dopo, dal 61, la cooperazione gestisce il turno dei bambini che il turno dei grandi. Il primo turno, dicevo, era Vaglia di Ligunchio, che è nell'Appennino Reggiano. Poi sì, per 3-4 anni si cambiava ogni anno, no? Si andava a Resca Pistoiese, Cervarezza, Lame di Mocconia, praticamente Fiumalbo, cioè l'Appennino Tosco-Emiliano. Poi nel 54 era nata la polisportiva cooperatori, no? Ciclomatori e sciatori, che era una cosa abbastanza insolita per l'epoca, però questi giovani amavano sciare, quindi si andò in Trentino, perché allora d'estate si poteva andare a sciare sulla Marmolada, sulla Namella, abbiamo delle foto fantastiche, queste montagne che nel tempo si sono trasformate, abbiamo anche si è proprio potuto registrare questa trasformazione. Fino Canazzei, no, prima Caldonazzo, Lavarone, Canazzei, poi si passò a Ponte di Legno, ma nel 61 si passò alla Val d'Aosta per vari motivi. Quello principale era che in Val d'Aosta c'era la possibilità di fare campeggi misti. In Trentino non erano molto apprezzati, c'era un po' di ostracismo nei confronti di costumi più aperti, che venivano, diciamo così, da bravette corte per le ragazze, le ragazze a torso nudo, così non si poteva fare al di fuori dell'area del campeggio. A Ponte di Legno ci furono, era il 60, quindi dopo i fatti del 7 luglio anche degli episodi di vandalismo, per cui si decise di andare in Val d'Aosta, molto più laica. Cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con i piedi un paio di sci. Dal cucuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, e con in testa un passamontagna, scenderemo sempre più giù. Scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga seggio via, sulla cima tutta bianca torneremo. Dal cucuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo, con i piedi un paio di sci. Scusami Sandra, quindi i campeggi cooperativi e anche quelli dell'API sono stati fin dall'inizio dei campeggi misti? No, i campeggi dei bambini sì, ma quelli dei grandi, adolescenti. Era il turno degli adolescenti, allora si chiamavano giovani, allora, erano il turno delle ragazze e il turno dei ragazzi, per questo dal 50 al 60, cioè nell'Appennino Tosco-Emiliano e Trentino. Si cominciò con i misti nel turno dei grandi dal 61, okay. Però in Val d'Aosta, dove era possibile farlo. E in questi campeggi c'erano anche dei trasferimenti, perché in Val d'Aosta voleva dire un'organizzazione eccezionale, perché portavate da Reggio tutto il materiale, quindi anche un lavoro di volontariato degli adulti, anche questo veramente encomiabile. Perché questi costruttori, dalla felice definizione di uno di loro, erano proprio operai, c'erano ad esempio gli operai dell'aceto, che era una cooperativa di elettricisti idraulici, partivano a giugno, montavano proprio il campeggio, andavano a cercare la fonte dell'acqua. Le cooperative erano anche molto disponibili, molto. Il materiale che veniva utilizzato veniva portato sul luogo con un camion deriva di un consorzio di cooperative agricole. Dava i propri camion in accomodato, potevano portare su il materiale, perché finché ci fu il campeggio in tenda, tutto il materiale veniva riportato a Reggio, no? In agosto, e veniva qui al magazzino, dove peraltro i campeggiatori controllavano tutto l'inverno, le tende, aggiustavano, andavano e si occupavano comunque con un grande impegno e una grande passione. Nel libro, oltre alle fotografie, alle interviste, ci sono anche delle testimonianze proprio di programmi scritti, appunti di persone, c'è anche programmi giornalieri dei campeggi, cioè che cosa si faceva, quindi c'è una parte di scrittura, ma anche le bandierine dei luoghi dove poi si campeggiava, insomma, e anche canzoni, insomma, c'è un po' una parte documentaria che racconta molto bene che cosa poi accadeva come attività. Ci vuoi raccontare di qualche attività, magari quelle più interessanti, principali, quelle che ricordi anche tu, perché anche tu sei stata una ragazza dei campeggi. Sono stata come bambina, poi dopo come dirigente. Voglio sottolineare che volontari erano anche gli educatori, che venivano scelti, ed era un grande orgoglio essere scelti, soprattutto fra i ragazzi che frequentavano il campeggio, però non si chiamavano educatori, si chiamavano dirigenti, cioè era un personaggio a tutto tondo, un impegno a tutto tondo, ma soprattutto erano giovanissimi, erano dei 15 anni, avevano i ragazzini dei 10-14 anni, i dirigenti cominciavano dai 15, 17, 18 anni, 20. E le attività, tanto in campeggio si cantava molto, si cantava, tant'è vero che alla fine degli anni 60 facevamo questo libricino rosso che conteneva delle canzoni montanare, canzoni partigiane, canzoni, c'era il Vietnam, come allora si quindi le canzoni Shadow Over Camp, c'erano le canzoni anche non operaiste, però insomma legate alla lotta partigiana, c'era le canzoni esempio Oltre il Ponte di Calvino, certo. C'erano le canzoni, penso Paramoglie, tipo lo integrammo, I Morti di Reggio Emilia, insomma tutta questa canzone che cantavamo durante le passeggiate, cantavamo le serate, durante i trasferimenti in pullman andavamo in gita, si cantava molto, si organizzavano molte attività, penso attività sportive, ballo, il teatro, il giornalino, a turno un po' i ragazzi facevano un po' di tutto e comunque venivano, diciamo così, sollecitati e stimolati nelle loro preferenze di attività. C'era un coinvolgimento anche proprio nell'organizzazione delle cose, cioè c'era un'organizzazione orizzontale, che questo forse è proprio un aspetto formativo molto importante, che ci racconta anche una scuola per l'avvenire, quella che voi chiamate così nel titolo del libro. Perché c'era proprio questa educazione, cioè l'educazione alla pace, però l'autonomia, l'autogestione, quindi i ragazzi venivano coinvolti anche nella giornaliera, so se in cucina, se si serviva ai tavoli, la cura degli spazi, e cioè noi eravamo immersi nella natura, parlava di ambiente e di ecologia, lo praticavamo continuamente, dico lo studio, ma l'osservazione della natura che ci circondava, e parlava, si ascoltava, si leggevano libri, si discuteva, questo soprattutto alla fine degli anni 60, il 68 arrivò anche da noi, arrivò soprattutto con Carla Rinaldi, che arrivò appunto nel 68, quindi proprio il nostro 68, ed era una studentessa, lei ancora non aveva mai lavorato, fu un incontro felicissimo tra lei, il direttore, al quale è dedicato il libro, Zerindo Pecorari, il Pecos, che era una persona, era stato il funzionario del movimento giovanile della cooperazione a Reggio. Lui capì, intuì, no, questa importanza, l'importanza del ruolo di Carla, e quindi la lasciò fare, e ci fu quindi un passaggio armonioso e creativo dal campeggio degli anni 60 a quelli successivi. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufera. 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani. Sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto Afrotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Afrotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi, bandiera rossa, fuori a cantare con noi, bandiera rossa. Tornano dunque gli appuntamenti col fumetto al femminile, e questa volta Patrizia D'Antonio ci parla del graphic novel Diario di una cagna, a firma di Graziella Padula e con Céline Tran, nota figura in Francia nel mondo del fumetto, edito Oblomov. Nella vasta produzione di fumetti francofoni mi sono imbattuta nell'album Gars dell'autrice, sceneggiatrice ed ex attrice hard Céline Tran, che ha voluto però la fumettista italiana Graziella Padula, pluripremiata e con grande successo in Francia anche al festival famoso di Angoulême, che appunto ha curato i meravigliosi disegni. Ovviamente ho cercato immediatamente la traduzione italiana, che è stata pubblicata dalle edizioni Oblomov nel 2023 con la traduzione di Valeria Marini, con il titolo Diario di una cagna. Allora, vediamo questa storia così interessante e soprattutto con dei disegni acquarelli delicati e assolutamente adatti a una raffigurazione, una rappresentazione della classica cosiddetta crisi della menopausa di una donna, Elisa, la protagonista della storia, autrice di una rivista femminile che a un certo punto, appunto, essendo già in una situazione un po' tipica in cui non ci si trova più a suo agio col proprio corpo, dovuta anche all'età, saggio esistenziale in cui la sua vita stagna tra il lavoro, routine di famiglia e tutto sembra un po' opaco e spento, scopre casualmente, banalmente, che il marito pieno di attenzioni e tenerezza, ma non la guarda, non la desidera sicuramente più in modo appunto che lei desidererebbe, e insomma la tradisce. Ora questo tradimento la immerge ancora più, ovviamente le fa fare questo passo assai fragile, diciamo, verso una possibile depressione, e decide di seguire di nascosto il marito per scoprire la verità sull'amante. Questa diventa un po' la missione, voi direte un classico, no? Una storia abbastanza banale. In realtà qui, a questo punto della narrazione, inizia la ricerca, l'esplorazione di se stessa della protagonista. La storia prende una piega decisamente originale, fino alla conclusione che non svegliamo, sarà una sorta di colpo di scena. Certo che Lise, che in questo percorso riscoprirà il suo corpo, si riapproverà della sua sessualità in un modo anche un non conforme, diciamo così, alla norma, e il messaggio in realtà è anche politico, una sorta di rivendicazione della libertà di percorrere altre strade da quelle obbligate da educazione e ruoli sociali. Elisa trasformerà la classica frustrazione di una donna un po' ritirata, madre sorpassata, moglie ormai non più desiderabile, trasformando il suo sguardo su se stesso, sulla vita, rivendicando una sorta di libertà, insomma una metafora, una metamorfosi raccontata attraverso i disegni di La Padula con grande delicatezza, che svela corpi, sessualità, fragilità di una donna che si osserva, e sicuramente sappiamo che il corpo è la cosiddetta croce e delizia per ogni disegnatore. Il lettore, o forse saranno più le lettrici, sono coinvolte nell'atmosfera a tratti onirica dei colori, di questi acquerelli, delle forme, delle ambientazioni che richiamano una voluttà e una sensualità che si sprigiona appunto nei tratti, negli acquerelli, esprimono queste emozioni e le esperienze del protagonista, della protagonista e del marito. Insomma, in un'intervista Grazia La Padula afferma che l'intenzione dell'autrice era quella di sollevare interrogativi più che dare risposte, suscitare riflessioni sul corpo e sulla relazione che ciascuno intrattiene con se stesso. È sicuramente un soggetto delicato e penso che in questo album si siano rappresentate anche crudamente delle verità, ma sempre appunto con il tratto delicato della disegnatrice, anche quando lo sguardo di Elisa su se stesso si fa impietoso, no? Spesso c'è questo specchio, lei si trova grassa, sfatta, la cicatrice del parto cesareo sul ventre che le ricorda il segno indelebile di una gioia che è poi diventato il marchio di un corpo sconfitto, e si chiede se per questo il marito, pur affezionato e gentile, desidera altro, e si chiede se è pronta a perdere tutto questo rassicurante mondo quotidiano, anche se privo di passione e desiderio, no? E quindi come superare anche il senso di colpa, pensando che sia lei a non essere più attraente abbastanza, e come fare per riscoprire e soddisfare i propri desideri e inclinazioni. Ecco, attraverso un percorso appunto in cui anche nelle scelte più piccole della vita quotidiana, come praticare la boxe invece che lo yoga per sfogare meglio la rabbia, o lasciarsi andare a incontri e scoperte inattese nella sfera della sua sessualità. Insomma, questa figura di donna in cui ci si può evidentemente in molte identificare, moglie affidabile, madre prevedibile, ma che le inizia a stare stretta, a soffrire di questi ruoli immutabili e codificati, il marito che non la guarda più come oggetto del desiderio, insomma, ne viene riflesso, lo specchio le rimanda a un corpo spento che non riesce a trasmettere altro che tenerezza. Insomma, possiamo chiederci se il diario di una cagna è una lettura tutta al femminile, se concerne solo le donne un po' mature o in menopausa. Direi che certamente però è una dedica a tutte le donne che, proprio come la protagonista Elise, si sono sentite almeno una volta nella loro vita rifiutate o comunque non proprio agio con la propria femminilità, sessualità, nei ruoli e nell'immagine in cui gli altri, comprese le persone vicine e amate, le ingabbiano. E le questioni in ballo, l'abbiamo detto, riguardano l'amore, la sessualità, il corpo, questo equilibrio che si cerca continuamente tra il dovere essere e il volere essere rispetto all'educazione e alla cultura dominante, spesso appunto di genere. Ma io credo, e non sono la sola, che sia una lettura anche e soprattutto per gli uomini, che sono curiosi di capire la complessità del mondo di una donna e i suoi segreti. E infine il messaggio è per tutti, compresi i giovani, Chiunque voglia capire il percorso di una scoperta di relazioni anche fuori dalla norma, indagare la fragile linea di confine tra segreto, pudore, vergogna, coraggio della verità e della tolleranza. Insomma, una bella scoperta nel messaggio, nella storia, e nei dialoghi, nella sceneggiatura e soprattutto grazie ai disegni di Grazia Lapadula. Una rivelazione. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.